Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Salva Danaio. Tra le novità introdotte dalla recente manovra di riordino dei conti pubblici, che da sabato scorso è legge dello Stato, c'è anche la riorganizzazione della tassazione sui prodotti di risparmio ed investimento. L'obiettivo del governo è quello di realizzare nei prossimi 3 anni maggiori entrate per circa 5 miliardi di euro, al netto degli effetti che saranno prodotti dall'alleggerimento dell'imposta sui prodotti bancari. Sempre che, dico io, con quello che sta succedendo sui mercati ci sia qualcosa da tassare ancora nei prossimi mesi, perché comincio ad avere anche questo dubbio. Nella sostanza, ritornando un po' al seminato serio, viene introdotta un'aliquota unica del 20% dal precedente 27%, prevedendo però importanti eccezioni. Ci sono degli inasprimenti in taluni casi, alleggerimenti in altri. Per esempio, la nuova aliquota sarà più leggera per i conti correnti bancari, prima era al 27%, ma sarà un po' più pesante per plusvalenze, dividendi, fondi comuni e polizze vita, prima al 12,5%. Ne saranno esenti, mantenendo la precedente imposizione al 12,5%, i titoli di Stato, i proventi dei prodotti compresi nella categoria previdenza complementare e i piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti, che sono al centro di un'iniziativa allo studio del governo, sollecitata in questo senso peraltro qualche mese fa dal Presidente di Assogestioni, Domenico Siniscalco. Tutto questo è al centro di una guida che esce oggi con il Sole 24 Ore, ma sarà anche al centro della copertina di Plus 24 di domani, del Sole 24 Ore. Qui abbiamo il rappresentante della scuderia di Plus, Gianfranco Ursino, che saluto. Gianfranco, bentornato, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ho detto tutto correttamente? Mi guardavi un po' perplesso? No, perfetto. Ci sarà qualcosa da tassare secondo te nei prossimi mesi? O stiamo raschiando il fondo? Visto l'andamento dei mercati, diciamo, dal punto di vista delle plusvalenze attese, esatto, per poterle tassare sarà molto difficile. E infatti quello che dovremo gestire sarà la tassazione delle minusvalenze, o comunque la compensazione delle minusvalenze. E questa era un po' l'indicazione che ieri mi ha dato il consulente fiscale, l'esperto che abbiamo interpellato per questo argomento, Fabio Guffanti, che saluto. Dottor Guffanti, buongiorno e benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno a tutti. Buongiorno. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, i vostri quesiti, 349 238 6666, il numero per i vostri sms. Potete anche scriverci all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Il tema è molto complesso, è molto articolato e si accavalla anche ad altre novità che sono intervenute di recente, perché c'è stata sia la novità sul conteggio della tassazione per i fondi di investimento a partire da luglio scorso, c'è il super bollo sui dossier titoli, anche questa è un'altra novità che inciderà sulle scelte di risparmio e di investimento da parte dei risparmiatori, per cui c'è un bel fermento, un bel po' di movimento, e gli ascoltatori, i risparmiatori all'ascolto appunto, devono capire bene come funzionerà tutto a partire dai prossimi mesi. Allora, la borsa la diamo velocemente, qua la situazione ci sembrava stamattina un po' meno pesante di ieri, ma vedo che già a metà mattinata le cose sono cambiate, e anche in questo momento Parigi e Francoforte perdono oltre un punto, Londra meno 0,4, FTSE MIB, Piazza Affari appunto meno 0,3%, euro su dollaro a 1,3648, lo spread era ritornato sotto i 400 punti base questa mattina, mercato molto cauto, attende a questo punto l'inizio dei lavori ufficiali del Fondo Monetario Internazionale di Washington, il G20, e tutti gli appuntamenti macroeconomici che si cercherà di capire se potranno dare delle ricette per uscire da questa crisi pesantissima, cosa è necessario fare per rilanciare l'economia, perché a questo punto, come è successo ieri, lo avete visto chiaramente, il problema grande è quello, oltre al debito sovrano dell'Eurozona, a questo punto a questo grande, importante tema si accavalla la quasi conclamata ricaduta in recessione, come ha detto la Federal Reserve un paio di giorni fa. E in tutto questo la crisi greca che non riesce a risolversi, Moody's stamattina, così tanto per non saperne leggere e scrivere, ha ribocciato di nuovo le banche del paese, come se ci fosse rimasto qualcosa da bocciare anche lì, ma in ogni caso anche questo stamattina è tornato a rideprimere i listini, soprattutto appunto a partire dalla metà della mattinata. L'ultima cosa, le autorità europee hanno fatto sapere che stanno valutando la possibilità di imporre una immediata ricapitalizzazione delle 16 banche europee che lo scorso luglio hanno passato di poco i famosi stress test. C'è anche una banca italiana fra questo gruppo, il Banco Popolare, lo dice il Financial Times. Direi che possiamo lasciare la borsa, magari i tre migliori titoli della seduta, cioè questo tentativo di riscatto appunto delle banche. La Popolare di Milano sta già andando bene da diversi giorni, più 2,64, UbiBank più 1,93, Unicredit più 1,46, Intesa San Paolo più 1,42 e proprio il Banco Popolare adesso è il peggior titolo e perde oltre 4,5 punti insieme a Toz. Per la borsa è tutto, andiamo invece alle novità normative sulla tassazione delle rendite finanziarie. Cambiano le regole del gioco per i risparmiatori. Dal 1 gennaio 2012, per effetto della manovra finanziaria di agosto, entrerà infatti in vigore un nuovo sistema per la tassazione delle rendite finanziarie, che andrà a coinvolgere molti degli strumenti e dei prodotti utilizzati dagli italiani. Viene introdotta un'aliquota unica del 20%, che va a sostituire le precedenti, provocando inasprimenti in taluni casi e alleggerimenti in altri. Se infatti le tasse sui conti correnti bancari scenderanno dal 27 al 20%, plusvalenze, dividendi, fondi comuni e polizze vita le vedranno aumentare rispetto al 12,5% che si sono viste applicare finora. Non vengono invece toccati, restando fermi al 12,5%, strumenti cari alle famiglie italiane come titoli di Stato e buoni postali fruttiferi. Un trattamento di favore del 12,5% verrà riservato anche a quelli che vengono definiti piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti, strumenti di investimento sui quali i risparmiatori sono invogliati a stare per un lungo periodo grazie all'attrattiva di una tassazione incentivante, o meglio, una tassazione differenziata in relazione alla durata del risparmio. Una buona pratica europea che l'Italia vorrebbe replicare, anche se al momento aleggia ancora molta incertezza in materia e si aspettano ulteriori interventi del legislatore per capirne l'effettiva interpretazione. In ogni caso è certo che alla luce di queste novità molti dovranno rivedere la propria situazione e forse cambiare la strategia del proprio risparmio. Non a caso l'industria del settore non si è fatta attendere ed è già in movimento con l'offerta di nuovi prodotti e soluzioni. 800 24 00 24 è il numero verde che vi permette di prenotare i vostri interventi in diretta, oppure avete l'alternativa dell'SMS 349 238 6666, o anche un'altra alternativa, un'altra chance, che è quella di scriverci l'indirizzo salvadanaio@radio24.it, se magari appunto il caso è un po' più articolato. Allora, tutte queste novità entreranno in vigore dal 1 gennaio del prossimo anno. Gianfranco, intanto dacci l'anteprima mondiale assoluta della copertina di Plus 24 di domani. Per domani naturalmente abbiamo cercato, alla luce di queste novità che interesseranno tutti gli investitori dal punto di vista fiscale, sia in virtù dell'entrata in vigore dal luglio scorso del nuovo bollo sul deposito titoli e anche in vista dell'entrata in vigore della nuova tassazione delle rendite finanziarie, abbiamo pensato di dare dei consigli operativi, proprio entrare nello specifico ai risparmiatori su come comportarsi e cosa valutare nelle decisioni da prendere per ottimizzare i propri investimenti, la gestione dei propri investimenti, anche considerando l'incidenza dei prelievi fiscali. Mm-hmm. E quindi cerchiamo proprio di entrare nel merito dei singoli provvedimenti per dare sia, diciamo, dove possibile, delle indicazioni pratiche, per esempio sul superbollo, dove ormai già l'Agenzia delle Entrate ha dato tutte anche i chiarimenti del caso, no? Che ha portato, ha fatto sì che ci siano comunque diverse bizzarrie, no? Sì, che vengono fuori naturalmente da questa interpretazione che l'Agenzia delle Entrate ha dato. Dall'altra parte invece le rendite finanziarie, più che dare dei consigli operativi in questo momento, abbiamo sollevato i punti interrogativi, i nodi che invece il governo, quindi con il ministero più che altro, con i decreti attuativi deve dipanare. È perché sì, sembra effettivamente tutto molto chiaro: dal 1 gennaio cambieranno le aliquote, ma non sarà così banale, perché naturalmente non è che a fine dicembre, a fine anno, noi chiuderemo i nostri prodotti di investimento, molti prodotti rimarranno investiti, pertanto avranno una doppia tassazione, forse intanto lì saranno le prime complicazioni di calcolo. E poi un'altra cosa importante è quella appunto sulla quale scherzavamo all'inizio, ma c'è ben poco da scherzare, effettivamente il tema adesso è che molti prodotti sono in perdita, per cui il grande problema diventerà come conteggiare appunto le minusvalenze. Fabio Guffanti, poi andremo all'ABC e cercheremo di capire appunto, prendendo in considerazione ogni singolo prodotto di investimento, che tipo di nuova tassazione avrà, ma mi chiedo, come esperto del settore, come consulente fiscale, quale ritiene che siano gli interrogativi più importanti che il governo con le misure attuative appunto deve andare assolutamente a chiarire, per fare chiarezza anche tra voi operatori? Giustamente nell'ambito del decreto legge, diciamo, al termine di ogni comma c'è scritto: con successivo decreto del Ministro dell'Economia dell'Agenzia delle Entrate si andrà a chiarire quelle che sono le modalità operative ed applicative di ogni provvedimento. Per cui diciamo che se uno scorre, perché la manovra di riordino delle rendite finanziarie sono praticamente 28 commi, perché parte dal comma 6 per arrivare al comma 34 dell'articolo 2 del decreto legge 138, manovra di Ferragosto. Quindi diciamo che dubbi ce ne sono in sospeso, anche perché giustamente veniva detto ci sarà un'unica aliquota al 20% tranne titoli di Stato italiani, aggiungo, cosa importante, anche titoli di Stato di paesi whitelist, perché se uno compra un bonus spagnolo piuttosto che un bund tedesco avrà comunque la tassazione del 12,50%. È un prodotto equiparato al titolo di Stato italiano, in sostanza. Assolutamente sì, al pari delle obbligazioni degli organismi internazionali, sì, come BERS, BEI, CECA, Euratom, eccetera, e al pari del prodotti, diciamo, dei buoni emessi da comuni, regioni, province, insomma, diciamo che la norma fa una elencazione molto precisa e la fa al comma 7 dell'articolo 2 del decreto 138. Per chi fosse proprio appassionato di termini legislativi e di normative, appunto, lo volesse andare a guardare. Dottor Guffanti, la devo fermare perché devo fare già la prima pausa, però mi viene un po' da ridere perché tutto si può chiamare tranne che aliquota unica al 20%, perché non è unica proprio per niente, in realtà poi le eccezioni sono tante, non è una contestazione, è una considerazione un po' così, solo sulla quale sorridere un attimo. Eccoci ritrovati in diretta, oggi a Salvadanaio affrontiamo la riorganizzazione della tassazione sui prodotti di risparmio ed investimento, riorganizzazione introdotta dalla recente manovra economica di aggiustamento dei conti pubblici, misura il decreto 138 della scorsa estate, legge 148 appunto entrata in vigore lo scorso fine settimana. Cosa cambia per chi ha in portafoglio fondi comuni, azioni, obbligazioni, titoli di Stato e altro ancora, polizze vita? C'è appunto una razionalizzazione, si parlava tanto di introduzione di un'aliquota unica al 20%, ma in realtà è stata sì introdotta, ma contemplando comunque ancora delle vistose eccezioni. Detto questo, il panorama è piuttosto complicato, perché poi chiaramente ci sarà una situazione intanto transitoria, perché non è che a dicembre tutti disinvestiremo i nostri prodotti, ne acquisteremo altri il primo gennaio in concomitanza appunto con l'avvio del nuovo regime normativo, e tanti prodotti rimarranno investiti, per cui avranno probabilmente una doppia tassazione, ma per la verità non su tutti i prodotti, questo è molto chiaro a giudicare dalle norme. Noi stamattina abbiamo Gianfranco Ursino del Sole 24 Ore, perché domani Plus 24 dedica questo spinoso argomento, la storia di Copertina, e poi un consulente fiscale nel settore bancario, nel settore delle fiduciarie, Fabio Guffanti con noi quest'oggi. Io comincerei subito con le domande dei nostri ascoltatori per dare subito anima, appunto, e vivacità al nostro programma. Iniziamo con Franco da Bologna. Franco. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Niente, volevo chiedere ai vostri esperti, in parte ha già risposto la scheda, i buoni postali fruttiferi, se sono tra gli equiparati ai titoli di Stato e quindi esclusi, perché la legge rimanda a leggi precedenti, e in una relazione tecnica ho trovato scritto che questa esclusione riguarda i buoni postali di risparmio. si tratta dei buoni postali fruttiferi, immagino, che è quello a cui sono interessato io. Grazie, grazie Franco. Allora Gianfranco, inizio con te, poi chiedo appunto a... Ed effettivamente no, è come dice il lettore, che a guardare le norme passate, ai rimandi che c'è nella normativa, e cercando quindi di incrociare tutti questi riferimenti legislativi, si va a propendere per un'interpretazione che anche i buoni postali rientrano nella categoria dei titoli di Stato ed equivalenti, non nel termine equivalenti, che permette anche ai buoni di restare una tassazione del 12,5%. Tuttavia c'è da dire che naturalmente il contesto è molto cambiato rispetto a quando quella normativa a cui si fa riferimento era stata emanata, e quindi attualmente le Poste sono in piena concorrenza con il mondo bancario, no? Ormai è una banca vera e propria anche la Posta, quindi c'è un forte pressing da parte delle banche che stanno facendo, proprio perché non vogliono, oltre già la concorrenza che le Poste già fanno, dargli anche un vantaggio competitivo ulteriore, lasciando i buoni tassati al 12,5%. Quindi c'è da immaginare che oltre, diciamo, a queste diverse interpretazioni ci possono essere anche degli interventi legislativi successivi per fare un chiarimento. Per quanto riguarda proprio i buoni, ho anche cercato in questi giorni di interpellare la Cassa Depositi e Prestiti, che sarebbe quella che le emette. Certo. Naturalmente anche loro per il momento non vogliono sbilanciarsi, perché aspettano i decreti attuativi che dovrebbe dare una risposta ben precisa. Se anche non ci parlano argomento. Loro col Ministero dell'Economia, figuriamoci oltre le banche, noi. C'è da dire che anche le stesse compagnie di assicurazioni sono un po' sul piede di guerra nei confronti delle Poste, perché tra i buoni, no? Naturalmente non ci sono soltanto i buoni ordinari, classici, che tutti noi conosciamo, ma ci sono anche ormai delle vere e proprie polizze index link, sì, che sono denominate e che rientrano nella categoria dei buoni, e mi riferisco, che ne so, i buoni a scadenza, i BFP Premia, che sono... perlomeno a livello di marketing le Poste, sì, lo propongono, sì, come un buono postale. E invece sono prodotti indicizzati all'andamento delle borse, magari agganciati anche a qualche obbligazione sparsa per il mondo, e poi lo scopriamo come quando succede il crack di Lehman Brothers, che pensavamo ad avere la polizza vita più serena del mondo, invece era agganciata ad un titolo di una banca clamorosamente fallita, e ci sono finiti anche i prodotti postali in mezzo. Certo, per cui ecco, quando andate ad acquistare il buono fruttifero appunto postale, proprio perché volete rischio zero, andate a guardare bene il tipo di prodotto che appunto il consulente vi propone in quel momento, perché potrebbe essere più complesso del previsto e quindi avere anche una tassazione più complicata per questo motivo. Allora, sul buono fruttifero postale vuole aggiungere qualcosa, dottor Guffanti? Concordo perfettamente, in quanto rientrano nei titoli equiparati ai titoli di Stato, e un'indicazione che può essere data al lettore: c'è una risoluzione ministeriale del 2000, credo la numero 58, che tratta proprio della tematica dei buoni postali fruttiferi, nel senso di equiparare i titoli di Stato italiano. Sull'ampliamento che dentro questi titoli vengano messi anche strumenti finanziari che in realtà buoni postali non sono, sono perfettamente d'accordo col dottor Rossino, ed è anche la stessa cosa di chi compra una polizza vita piena zeppa di fondi hedge, convinto che sia una polizza vita, quando in realtà fiscalmente deve essere trattata a tutti gli effetti come un fondo hedge. Volevo, prima di sentire gli altri ascoltatori, anche sgombrare il campo dagli equivoci relativamente ai prodotti di previdenza complementare, perché questi hanno già una tassazione a parte, Gianfranco, ricordiamolo, che è molto più incentivante rispetto a tutte le altre aliquote, ma questo da sempre, e questo comparto non viene assolutamente toccato dalla nuova disciplina. Ed è ben scritto anche nel provvedimento, norma, che rimangono tassate, quindi le rendite per quanto riguarda incassate dei fondi di pensione all'11%. E quindi ecco, per tutti coloro che ci stanno facendo questa domanda, le pensioni integrative, ho sottoscritto una polizza che ha questa finalità, eccetera, ecco, da questo punto di vista possiamo appunto stare tranquilli, non ci ritornerei. Sentiamo invece, c'era una domanda che mi piace molto, che è quella di Mimmo dalla provincia di Potenza, che ci dà modo proprio appunto di testimoniare ancora la confusione che queste novità può generare per chi ha dei prodotti in qualche maniera misti. Poi spiego perché li definisco in questa maniera. Mimmo, buongiorno. Buongiorno, senta cortesemente, solo una banalissima domanda che riguarda la tassazione delle rendite finanziarie, in particolar modo sui fondi di investimento. Mi riferisco in particolare ai fondi di investimento di liquidità, cioè quelli che investono tutto il patrimonio in titoli di Stato. Uh-huh. In questo caso la tassazione si equiparerà al 20 oppure resterà al 12,50? Bellissima domanda, Mimbo, perché era proprio quello che ci chiedevamo con Gianfranco Ursino appunto prima della trasmissione. Allora, secondo quello che dice la norma, il fondo di investimento adesso va tassato al 20%. Però c'è un però. Però come? Dentro ci sono i titoli di Stato che hanno una tassazione al 12,5%. Chi vince? Chi vince, naturalmente. La norma dice al momento che vanno scorporate, diciamo, dall'interno del patrimonio dei fondi comuni, diciamo, i proventi che vengono generati dai titoli di Stato che hanno in portafoglio. A questo punto, per quale motivo questo? Perché quei proventi che derivano al fondo, quindi al sottoscrittore, che vengono generati dai titoli di Stato italiani ed esteri che sono in portafoglio del fondo, restano tassati al 12,5%. Il resto, quello che invece il fondo ha, non solo il fondo di liquidità, ma parlo di tutti quanti i tipi di tipologie di fondi comuni di investimento, a questo punto restano, vanno tassati al 20%. Quindi tutti si attendono come fare, perché per le società di gestione, per le banche depositarie soprattutto, certo, che sono, non è un problema di poco conto, questi calcoli, non è un problema di poco conto, perché mamma mia. Però una cosa che forse è positiva, no, in questo quadro, perché dovrebbero forse rendere trasparente il portafoglio giorno per giorno, a sto punto, per poter contabilizzare esattamente quali sono la quota parte di rendimento del fondo che deriva dai titoli di Stato, per poterlo continuare sarà 12,5%. Certo, perché magari il cliente può tener conto, effettivamente anche può chiedere conto del cliente, conteggio, certo. è un qualcosa che potrebbe portare ad una cristallizzazione, diciamo, della composizione effettivamente di questi portafogli, sia perché si parla tanto degli ETF, ma soprattutto sui fondi comuni di investimento, che abbiamo visibilità soltanto semestrale. Come l'hai vista lunga tu, Gianfranco, ma chissà, insomma, se avremo anche questa evoluzione positiva, noi lo speriamo. E chiedo anche al dottor Guffanti se vuole aggiungere qualcosa relativamente al tema appena affrontato: fondo di investimento con una tassazione, ma dentro questo portafoglio ci sono titoli che hanno appunto invece una tassazione differente. Assolutamente concordo, e ci sarà un grosso lavoro per le società di software, perché ovviamente meglio così. Meno male qualcuno che lavora, quantomeno visto che fanno questi programmi. Queste norme di sviluppo non è scritto nulla, quantomeno questa norma comporterà del lavoro per le case di software, quindi almeno, come dice lei giustamente, qualcuno lavorerà. Dottor Guffanti, le chiedo invece un'altra cosa. Allora, i nostri ascoltatori fino a questo momento hanno toccato il tema prevalentemente di fondi di investimento, industria che per la verità sta registrando disinvestimenti notevoli da molti anni a questa parte. Le banche, anche avendo magari il controllo di società di gestione dei risparmi, hanno comunque preferito fare raccolte in maniera diversa negli ultimi anni dagli investitori, dai risparmiatori, e molta raccolta l'hanno fatta attraverso lo strumento dell'obbligazione bancaria. Questa, dal punto di vista fiscale, dal 1 gennaio come verrà disciplinata? Allora, si tratta di vedere il discorso legato al decreto della 239, perché purtroppo qual è questa legge, dottor Guffanti? Non la diamo per scontata. È la famosa legge del 1996 che ha rivisto la tassazione sia dei titoli di Stato che dei titoli cosiddetti dei grandi emittenti, quindi banche, società con azioni quotate in borsa e quant'altro. La cosa curiosa e particolare di questa manovra è stata che, mentre in questo decreto legge 239 del 96 i titoli di Stato, sia italiani che esteri, di fatto venivano equiparati alle obbligazioni dei grandi emittenti, quindi banche, società con azioni quotate in borsa, con questo decreto legge 138 in realtà c'è stato uno sdoppiamento, per cui da un lato titoli di Stato italiani e esteri, diciamo, paesi emessi da paesi non paradisi fiscali, che continueranno anche dopo l'1 gennaio 2012 ad essere tassati al 12,5%. Dall'altro fronte invece obbligazioni di banche e società con azioni quotate in borsa, che viceversa passeranno al 20% sia come tassazione della cedola e sia anche come tassazione dell'eventuale plusvalenza, quindi compro un titolo a 100 e lo rivendo a 102, quel 2 di plusvalenza verrà tassato al 20% se è su un'obbligazione bancaria o di una società quotata in borsa. Benissimo, allora sì, siamo partiti un po' alla lontana, però la conclusione è che in ogni caso l'obbligazione bancaria e eventuale plusvalenza viene tassata al 20% dal 1 gennaio. Dottor Guffanti, ecco qua. Mattia, ci siamo imbarcati in un mondo complicatissimo, però un tema che bisogna affrontare, la nuova tassazione del risparmio a partire dal 1 gennaio del prossimo anno, perché le novità, alcune sono positive perché alleggeriscono la tassazione di alcuni prodotti, altri invece altre tassazioni di altri prodotti vengono un po' inasprite, appunto è bene che tutto questo si sappia, perché anche alla luce delle novità recenti che hanno riguardato il superbonus sui dossier titoli, la riorganizzazione anche del conteggio della tassazione sui fondi di investimento, la novità appunto l'armonizzazione europea che è stata introdotta a partire dal 1 gennaio, ci sono state tante novità che si sono accavallate e che, complice anche la crisi che sta invece allontanando un po' forse le famiglie purtroppo dal risparmio, e sono tutte novità che è bene che si conoscano, perché probabilmente potrebbero comportare anche una necessità di mettersi intorno ad un tavolo in famiglia e ridistribuire un po' le risorse destinate appunto al risparmio mensile o periodico di questa famiglia. Detto questo, abbiamo affrontato, purtroppo dobbiamo fare tutto molto rapidamente, ma per tutti gli approfondimenti vi rimando a Plus 24 di domani sul Sole 24 Ore, se volete anche alla complessa guida che è uscita oggi sulle Sole 24 Ore, appunto rendite finanziarie, il nuovo prelievo. Abbiamo affrontato già il tema dei prodotti previdenziali, buoni fruttiferi, i titoli di Stato, i fondi di investimento che hanno una certa tassazione, ma che se nel loro portafoglio hanno titoli di Stato, questi prodotti ne hanno un'altra, quindi come si mettono e si incrociano le due questioni. Sentiamo adesso Giulio D'Asco di Piceno. Abbiamo anche affrontato l'obbligazione bancaria. Sì, Giulio. Buongiorno, senta, io chiamo per un chiarimento. Io ho alcuni investimenti, le spiego, due PAC azionari investiti in zone diverse del mondo, un'obbligazione della BN Ambro e un'obbligazione bancaria Banca di Credito Cooperativo. Volevo sapere cosa cambia attualmente, soprattutto per uno di questi due FAC azionari, perché sono un derivato di una fusione bancaria della vecchia BNA, che il FAC è un derivato a BN Ambro che attualmente è passata a un'altra società del Monte Paschi Siena. Prima, Giulio, sì, allora, prima di lasciarci un attimo, sì, Giulio, senta, volevo fare una domanda per lei. Per quanto riguarda le due obbligazioni, è importante sapere, per darle una risposta, che tipo di scadenza hanno, cioè 18 mesi sopra o sotto i 18 mesi, ecco, è lo spartiacque. Sopra, perché fino... 18 mesi. Sopra, perché sotto i 18 mesi fino ad oggi erano tassati al 27 e quindi scendono al 20%. Per le obbligazioni erano equiparate quelle, ad un conto corrente. Erano, diciamo, tassati, erano diciamo, in senso peggiorativo, per favorire un po' il risparmio del lungo termine. E in questo caso, quindi, quello del lettore, no? Sia per quanto riguarda quindi le obbligazioni che è in portafoglio che per i fondi comuni, bisogna dire che passeranno la tassazione sulle rendite finanziarie per tutti i suoi investimenti dal 12,5% al 20%. Con la particolarità che abbiamo detto prima, perché anche se ha due PAC su fondi azionari, se il fondo azionario per gestire la liquidità minima che ha in portafoglio si appoggia su dei titoli di Stato, quella parte, seppur minima, dei titoli di Stato che ha in portafoglio e genera dei rendimenti che saranno tassati al 12,5% anche al sottoscrittore. Io posso aver deciso, adesso a prescindere dal PAC, che è il piano di accumulo, ammettiamo di parlare di un fondo di investimento che ho sottoscritto tutto in un'unica soluzione, magari l'ho fatto un anno e mezzo fa, però chiaramente avrà una durata di un determinato numero di anni, 5 anni. Dottor Guffanti, è possibile pensare che la tassazione sulle eventuali plusvalenze di questo prodotto avranno una situazione mista, nel senso la società di gestione di risparmio calcolerà le plusvalenze realizzate a dicembre con la vecchia tassazione e a partire da gennaio calcolerà la nuova, oppure varrà, poi questo lo facciamo di ragionamento anche sui conti di deposito, varrà il principio di cassa per cui ci sarà un conteggio definitivo di tassazione nel momento in cui il prodotto verrà disinvestito? Sono stata chiara? Assolutamente sì, e io amplio un momentino la mia risposta in maniera tale che almeno diamo un'ulteriore chiave di lettura agli ascoltatori che ci stanno ascoltando. Allora, proprio al fine di evitare situazioni traumatiche al 31 di dicembre, visto come vanno i mercati, Milano adesso sta perdendo già più dell'1,5% e 2% Francoforte. Ma si sta mettendo a fare il mio lavoro? No, assolutamente, ma tra le varie cose un occhiettino sui mercati ogni tanto glielo do. Vabbè. Allora, il grosso problema da evitare era quello di dire tutti si mettono a vendere il 29, il 30 e il 31 dicembre per poter fruire dell'aliquota del 12,5%. Fortunatamente sono state inserite delle norme per cui si dice viene offerta la possibilità di riallineare i valori al 31 di dicembre, quindi se io ho comprato un titolo a 100 che al 31 di dicembre vale 150, io posso fare il riallineamento a 150 e sul 50 di plusvalenza pagare il 12,5% in maniera tale che all'1 gennaio la mia partenza come prezzo di carico ai fini del calcolo del successivo 20% sarà 150 e non 100. Quindi questo discorso vale, ma c'è una norma molto particolare che dice se io decido di fare questo riallineamento non lo posso fare solo per un titolo particolare e non per gli altri, perché ho un obbligo di farlo per tutti, quindi non solo titoli azionari ed obbligazionari, ma anche fondi comuni armonizzati e fondi comuni non armonizzati ma situati in paesi appartenenti all'Unione Europea oppure in Norvegia e Islanda, che sono i due paesi dello spazio economico europeo che sono considerati white list dalla nostra normativa fiscale. Ottimo, allora io ho altre due domande, però volevo affrontare prima di questo il tema dei conti di deposito, perché anche questi subiscono dei cambiamenti importanti, migliorativi, perché l'aliquota sulle remunerazioni dei conti viene ridotta appunto al 20% dalla precedente 27%, ma anche in questo caso ci sono delle situazioni miste, perché molte banche, sempre per alimentare la raccolta che non riusciva attraverso altri canali, hanno lanciato sul mercato, soprattutto le banche che puntano su questi prodotti di risparmio, i conti di deposito, hanno lanciato sul mercato prodotti con remunerazione molto alta, a patto che però i sottoscrittori detengano la sottoscrizione di questi prodotti per almeno un anno e mezzo, due anni, sei mesi. Sono dei prodotti vincolati. Allora, se io, Gianfranco, sottoscrivo oggi un conto di deposito vincolato che ha una certa tassazione che è il 27%, ma posso disinvestirlo esattamente fra un anno quando ci sarà la tassazione al 20%. Come mi viene calcolato il rendimento di questo prodotto? È proprio su questo che, se uno guarda la legge, essendo i conti di deposito diciamo equiparati ai conti correnti, dovrebbero essere tassati secondo il principio della liquidabilità, e quindi si guarda il giorno in cui si incassa, si vede qual è l'aliquota e vengono tassati quindi nel tuo esempio tutto il 20%. Però c'è un però. Non è un obbligo, diciamo, la banca potrebbe anche decidere diversamente di fare regime misto. No, è che la banca sta cercando di capire, perché se possono fare in un modo o nell'altro, nel senso che per quanto riguarda i conti correnti non ci sono problemi. Naturalmente tutti quanti riceviamo il stato conto a 31-12 il giorno che sarebbe che cambia la norma, quindi a quel punto tutto quello stato che è maturato nel questo anno va al 12,5 e poi si passerà al 20. Ma per i conti di deposito vincolati, naturalmente noi abbiamo provato a fare un giro tra le varie banche per capire chi è che lo offre, come tasserà in questo periodo transitorio, no? Con il passaggio dalla vecchia alla nuova tassazione, i contratti che sono in essere. Certo. E allora c'è chi è convinto di andare verso una direzione, chi, come quello che ho detto prima, di tassare tutto quanto per cassa, c'è chi invece, domani riscriviamo tutto quanto questa indagine che abbiamo fatto in copertina, c'è chi invece dice no, io lo tasserò sulla base di quelli che sono i giorni del 2011, quindi per maturazione, secondo il principio della maturazione, 12,5% per tutti i giorni diciamo del 2011 e poi il 20% su quell'altra quota parte, e quindi c'è grande confusione, perché naturalmente si attendono i decreti attuativi, che si spera, tutti lo speriamo, gli operatori soprattutto, che arrivano per tempo e non il 31-12 per poter sistemare tutto. Però insomma anche loro navigano a vista, speriamo che questi provvedimenti attuativi arrivino molto rapidamente. Grazie Gianfranco, buon lavoro, a presto. Grazie a voi. Grazie a Fabio Guffanti, buona giornata, grazie per la sua consulenza, grazie a Marco Lombardo per la collaborazione in redazione. Ve lo annuncio anche da questa settimana, assistente nuovo ufficiale di Salva Danaio, e Robby Scaltritti in assistenza tecnica. Buona giornata, lunedì.